il più felice di tutti. Il cristianesimo è la fede dell'entusiasmo. Per l'entusiasmo occorrono due cose, un grande ideale e un grande cuore. Il cristianesimo possiede il più grande ideale, la conquista della felicità, della giustizia, della sapienza, della perfezione, dell'immortalità. La fede non è un lusso, né un'occupazione per pensionati, non è un sistema di allevamento di bigotti decrepiti, né un giardino di infanzia o ricovero per vecchi, né rifugio di falliti, di invertebrati, di rinunciatari. Il cristianesimo è l'unico sistema per rinnovare la giovinezza, è una scuola militare, è una carriera dura ma splendida. Ti si insegna fede nell'invisibile, la speranza nell'impossibile. Ti si insegna l'autodisciplina senza costrizione, l'arte del comando di se stessi senza ossessione, l'arte della conquista senza rapina di terre, né di mari, né di bottino, ma di cuori umani. Ti si insegna un'atletica intellettuale e per curare il reumatismo o la tisi morale. E una scuola di entusiasmo. Non troverai mai un vero figlio di Dio malinconico, pessimista, rinunciatario, sfiduciato. Se ha fatto delle rinunce non le ha fatte per meschinità, ma per magnanimità. Se si è spogliato di cenci lo ha fatto per vestirsi di porpora. Sembra un miserabile. Invece è un signore. L'avversità non lo scoraggia, lo provoca. Se incontra un ostacolo, lo salta, e se non può, lo raggira. Ma non si ferma. La sua marcia è un equilibrio sopra gli abissi. Vivere nel mondo senza essere del mondo. Evitare la presunzione senza cadere nella disperazione. Non preoccuparsi del pane quotidiano, eppure cercarlo ogni giorno instancabilmente. Essere prudenti come serpenti e semplici come colombe. Piangere le proprie colpe e vivere in perfetta letizia, sempre in cammino, sospinto dall'ideale, fra pericoli naturali e violenze umane, pericoli di folle, pericoli di solitudine, pericoli di nemici e di falsi amici, fra le insidie della vanità e gli agguati delle passioni, tra i frutti della maldicenza e i rovesci dell'ingratitudine. Nulla può fermarlo più, neppure la morte, che anzi gli presta le ali per l'ultimo balzo. Quando il mondo vede comparire tali conquistatori li deride, ma storia s'accorge subito che sono ormai giunti i suoi padroni. Come scrisse un autore ignoto, ho chiesto a Dio forza per arrivare a grandi cose. Sono stato reso debole perché potessi ubbidire umilmente. Ho chiesto salute per riuscire a fare cose grandi. Mi è stata data la malattia perché facessi cose migliori. Ho chiesto ricchezze per poter essere felice. Ho avuto povertà perché imparassi a diventare saggio. Ho chiesto potenza per ottenere la lode degli uomini. Ho chiesto tutto per poter godere della vita. Ho ricevuto la vita per poter godere ogni cosa. Non ho ricevuto nulla di quello che ho sperato. Quasi contrario.